Italia in controluce. Se n'è andato in una fredda sera di fine novembre, mentre Roma aveva appena finito di mangiare e si accingeva a guardare la televisione. Mario Monicelli ha deciso di porre fine alla sua vita proprio a 95 anni, pensate, alla fine della sua vita, lasciandosi cadere dal quinto piano dell'ospedale San Giovanni. Mario Monicelli ha raccontato a modo suo tutti i passaggi della storia italiana del Novecento. È stato per molti l'alfiere della commedia all'italiana. Con la Grande Guerra riceve il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 59 e ottiene la sua prima nomination all'Oscar. Chi va? Ma che fai, oh? Prima spari e poi dici chi va? È sempre meglio un amico morto che un nemico vivo. Chi siete? Siamo l'anima degli mortacci tua. E allora passate. Il film, lontano dagli stereotipi classici della commedia, ha un tono tragicomico che tocca in modo delicato il dramma della Prima Guerra Mondiale, dove sardi, siciliani, veneti e lombardi si trovano fianco a fianco nelle trincee del Casso, del Grappa, a combattere gli austriaci. Di fatto è un racconto sull'unità d'Italia con Alberto Sordi e Vittorio Gassman, grandissimi mattatori. Proprio su questo film lo avevo intervistato nel programma Storia di Radio 24. Questo tabù della guerra del 15-18, che era intoccabile, perché già durante il fascismo si era costruita sopra una cosa, un panteo, un tempio, per cui guai a toccarle, 600.000 morti, l'ultima guerra di indipendenza, Trento, Trieste, tutti che correvano alla mobilitazione, tutti che sono corsi ad arruolarsi, ed era tutta una falsità, non era vero niente, nessuno sapeva niente, era un'Italia quella degli anni 15, figuriamoci che era il 70% erano analfabeti, quindi non sapevano dove stavano, perché stavano, dove stavano. Cioè erano stati mandati al macello senza sapere. Erano stati chiamati, mandati su questi Alpi, su queste montagne, in mezzo alla neve, al fango, queste fosse scavate era meno peggio, senza, mal armati, mal guidati, mal nutriti, ecco, messi lì senza sapere perché e dove. Sono stati lì 3-4 anni, così, stando lì senza muoversi e se non facendo dei, qualche volta uscendo fuori dalla trincea spinti per assalire un'altra trincea che stava a pochi centinaia di metri, poco distante, massacrati, bombardati, eccetera. Ecco, sono andato così, avanti così per 4 anni. Io poi credo che abbiano resistito tanto questi soldati, perché in conclusione poi questa povera gente, questi contadini, questi braccianti che venivano da un'Italia contadina, era proprio quasi da terzo mondo, erano abituati a vivere così in realtà, a casa loro, vivevano nella fanga, nella miseria, mangiando quello che capitava, voglio dire, quindi si sono trovati non molto peggio di quanto erano abituati a casa loro. Ma Monicelli non si è fermato alla ricostruzione storica degli eventi dell'Italia contemporanea. Ha fatto emergere i volti e le storie di un paese che usciva negli anni 50 dalla ricostruzione e dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale e si avviava verso gli anni del boom economico. Ad esempio, nella comicità dei Soliti Ignoti troviamo tante microstorie di ladruncoli, da strapazzo, di sfigati, emarginati, sognatori, perdenti. E questa valigia qua? Questa è mia, personale, parto. Come parti? Amico mio, quando avviene uno scasso, il sottoscritto non è mai in loco. Vado a Spoleto dalla mia azienda. Oh, si intende, eh? Con nulla osta del commissariato. La prudenza non è mai troppo. Ricordatelo, ragazzi, la prudenza non è mai troppo. In bocca al lupo. Del cinema di Monicelli poi c'è il femminismo della ragazza con la pistola con Monica Vitti, l'amicizia e il tradimento del romanzo popolare, la goliardia ma anche la disoccupazione di Amici miei, l'irrappresentabilità degli italiani per perdita irreversibile di tutti i caratteri positivi nel film Un borghese piccolo piccolo, la Roma papalina del Marchese del Grillo. ma al di là dei suoi film, Mario Monicelli era un uomo il cui impegno civile era conosciuto ed apprezzato, un impegno in difesa della cultura, della conoscenza, a difesa della creatività delle nuove generazioni. Adriana Fracchia, proprio su questi punti, ha intervistato il critico cinematografico Gianni Canova. Monicelli è stato dentro il secolo con un sorriso sarcastico, acre, feroce, beffardo. Ci ha fatto morire dal ridere, ma è stato anche capace di ridere della morte. Quando ho appreso la notizia della sua scomparsa mi è venuta in mente quella scena straordinaria del film Amici miei, in cui muore il Perozzi, il personaggio interpretato da Philippe Noiret, e quando gli amici lo vanno a trovare in ospedale poco prima che muoia, Perozzi guarda i compagni di tante zingarate e biscarate e dice: levatevi dai coglioni che devo morire. Mi piace pensare che Monicelli se ne sia andato così, in qualche modo con un sorriso feroce, consapevole, come dire, che la morte sta dentro la vita, e che in tutti i suoi film questo lui ha raccontato. Ha raccontato una condizione, l'hanno preso tutti per un, come dire, per una specie di Balzac dell'Italia contemporanea, i giornali lo ricordano così, no? Un acre sarcastico ritrattista o un ironico fustigatore di costumi. In realtà a me sembra che nel suo cinema ci sia anche un cinico nichilismo che anima dall'interno quasi tutti i suoi personaggi e che avvicina i suoi film in maniera sorprendente a quella antropologia dell'assurdo che fa capo a Beckett e che tanta parte ha avuto nella cultura europea del Novecento. Davvero i protagonisti dei film di Monicelli, più che ai vitelloni di Fellini, assomigliano davvero a personaggi becchettiani che sono lì in un teatrino dell'assurdo ad aspettare il nulla, il vuoto di senso che li circonda. Dalla Grande Guerra fino a quello film straordinario, veramente, che è Un borghese piccolo piccolo. Tutti i film che hanno a che fare con la morte, badate bene, perché Monicelli ha raccontato quello soprattutto. La Grande Guerra si ricorda indimenticabile il finale, il modo in cui muoiono quei personaggi della morte, trovano il riscatto della loro vita. Il borghese piccolo piccolo, ricorderete tutti la scena grottesca della camera mortuaria del cimitero di Roma, in cui sono accatastate bare che esplodono per i gas dei cadaveri che sono contenuti. Monicelli è stato sarcastico anche in questo e come dire, ha raccontato, come dire, quell'ordine cannibale che caratterizza il Novecento, un ordine cannibale nel senso che pare spesso che i personaggi siano lì pronti a divorarsi l'un l'altro, con la consapevolezza di quel poco poco poco nulla che siamo, di cui drammaticamente, eroicamente, umanamente, Mario Monicelli ha dato testimonianza anche nel suo modo di morire. La vita nuda, la nuda vita e nient'altro. E alla fine di Mario Monicelli restano tante cose. Restano i film, la cultura, l'amore per i giovani e resta a me il suo testamento spirituale, quello che mi aveva donato e lasciato nel programma Storie, un testamento spirituale a futura memoria. In tutti questi anni del suo lavoro, di quale Italia è stato testimone? Ci sono stato testimone della discesa continua, incessante, di una qualità dell'Italia, di una continua discesa incessante. Dai primi anni 30, da quando ci siamo liberati dal fascismo, dalla guerra, era nata un'Italia molto generosa, molto speranzosa, solidale l'uno con gli altri, ed è stata ricostruita con grande gioia, con grande volontà. Sono stati 8-10 anni meravigliosi, per cui tutti gli italiani avevano voglia di fare, di ricostruire tutto, ma non soltanto il cinema, intendiamoci, tutto il cinema, l'economia, la scienza, le costruzioni, le ferrovie, è stato ricostruito tutto con uno slancio. E poi a un certo momento una cosa, ed eravamo tutti molto solidali, c'era uno scambio fra di noi che a un certo momento, con il benessere, quando si è conquistato il benessere, col boom che si è conquistato rapidamente, perché già negli anni, primi anni 60 è venuto il boom, e questo boom, il benessere, ha dato una svolta orribile, cioè ha dato la svolta che invece di mantenere questa Italia bella, giovane, fresca, ha preso la svolta per colpa di una classe dirigente, secondo me, stupida e corrotta.